il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Una cartiera del Cinquecento è tornata per un giorno a fare la carta. È la cartiera di Vas, lungo le sponde del Piave, che sta riprendendo vita grazie all'attività dell'associazione culturale La Carta. Oggi andiamo a scoprire questa interessante iniziativa e abbiamo con noi il presidente dell'associazione, Ivan Daltoè. Che cos'è la cartiera di Vas? Perché è nata in questo luogo? E poi quali sono un po' i vostri progetti? Allora, la cartiera di Vas è uno dei più antichi opifici della Repubblica di Venezia, nasce proprio qui perché c'è un motivo d'acqua sostanzialmente, cioè i Gradenigo, che sono una delle famiglie patriarcali di Venezia, nella prima metà del Seicento decidono di avviare una produzione di carta a Vas, un paese di montagna che però era bagnato da due corsi d'acqua importanti. Uno era il torrente Fiume, che garantiva la materia prima d'acqua, un torrente la cui acqua era sempre pulita e quindi in epoca proto-industriale garantiva un prodotto di qualità eccelsa, una carta particolarmente bianca, e l'altro corso d'acqua era il Piave, che era l'autostrada dell'epoca e che quindi permetteva il trasporto delle merci in maniera ottimale. La cartiera fu una delle più importanti del nord Italia, esportò carta in gran parte d'Europa, nel bacino del Mediterraneo, e l'attività con vari ammodernamenti tecnologici proseguì fino alla fine degli anni 60. Dopodiché l'attività cartaria cessò, vi fu un breve periodo di riconvertimento in piscicoltura fino agli anni 80, quando poi il sito di grande importanza storica e anche di importanza volumetrica è caduto in totale disuso. Alla fine degli anni 90 l'amministrazione dell'allora comune di Quero Vas, comune di Quero Vas, perché c'è stata una fusione, una delle prime fusioni di comuni piccoli nel Veneto, e si è mossa con un comitato di imprenditori per attingere dei fondi europei per riqualificare quest'area importante. E quindi oggi questo sito è stato recuperato in gran parte, almeno dal punto di vista anche architettonico, ed è utilizzabile per iniziative. Sì, dunque in grosso modo, giusto per finire quello che stavo dicendo, l'operazione di utilizzo dei fondi europei ha portato alla riqualifica di un'area di cui una parte era destinata ad uso artigianale, quindi in gestione dei privati, una parte, un terzo grosso modo dell'area complessiva è parte pubblica destinata ad usi culturali e sociali. Il fatto è che all'indomani del termine dei lavori è subentrata la crisi economica e quindi l'area è rimasta di fatto inutilizzata per diversi anni, fino a quando noi ci siamo costituiti come associazione e utilizzando in maniera esclusiva gli spazi pubblici abbiamo iniziato a rilanciare questo spazio, sia dal punto di vista storico-culturale che dal punto di vista proprio di una sorta di intenzione di accendere i riflettori su tutta quest'area, che è un'area di grande importanza storica. Ecco, voi vi siete costituiti in associazione apposta con un progetto per quest'area. Cosa state facendo e cosa prevedete di fare? Sì, noi nasciamo proprio con l'idea di valorizzare questo sito, veniamo da esperienze diciamo vicine a quello che è la cifra diciamo più caratteristica di questo opificio, che è appunto l'archeologia industriale. Siamo ex studenti di archeologia industriale, qualcuno di noi si occupa anche a livello professionale di questa materia, io personalmente ho anche delle specializzazioni in ambito turistico e quindi abbiamo letto questo sito come uno snodo strategico per recuperare una parte importante della storia del territorio, certamente per mantenere l'identità di un territorio ma anche per farne un possibile volano turistico. In quest'ottica vanno lette tutte le iniziative che stiamo facendo, che sono iniziative a 360 gradi, andiamo dalla formazione agli eventi diciamo così più o meno ludici, come possono essere serate anche musicali, ultimamente stiamo facendo degli aperitivi per avvicinare anche i giovani a questo spazio, alla realtà che stiamo facendo, e non ultima cosa l'idea di riproporre la produzione della carta. Nelle nostre intenzioni c'è di dedicare uno spazio di quelli in nostra gestione a museo della carta, però un museo molto dinamico, quindi non una collezione di cose da vedere, ma un posto dove si possono fare esperienze. E l'esperienza principale quando si parla di carta è proprio quella di farne un foglio. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Forse il primo bacio dato sulla riva, lo sguardo di tua madre, il primo giorno di scuola, quel giorno che ti hanno umiliato e tu l'hai scritto su un muro. Lanciarsi nudi giù da un precipizio, ritrovarsi in apnea nel freddo di un abisso, imparare le regole per poi infrangerle al momento giusto. Ci sono cose che ti cambiano, ci sono cose che ti cambiano, ci sono cose che ti cambiano e ti ritroverai un po' più grande. La tua prima volta che non ti ha convinto è quella chitarra con i primi soldi e i tuoi 18 anni, quella foto con tuo padre, la tua promessa sull'altare, quella volta che partisti e lasciasti tutto, uno zaino, un diario e poco altro, per dimostrare a te stesso, solamente a te stesso, che per vivere non c'è bisogno di un permesso. Ci sono cose che ti cambiano, ci sono cose che ti cambiano, ci sono cose che ti cambiano e ti ritroverai un po' più grande. Ci sono cose che ti cambiano, ci sono cose che ti cambiano, ci sono cose che ti cambiano e cambiano la rotta al tuo viaggio. Forse quella cosa che chiamiamo amore, una vecchia storia di cui sappiamo poco, che convince i cinici, confonde i diavoli e ci fa cantare. Wow! Cose che ti cambiano e ti ritroverai un po' più saggio. Ci sono cose che ti cambiano, ti cambiano. Ci sono cose che ti cambiano e cambiano la rotta al tuo viaggio. Ci sono cose che ci cambiano, ci cambiano, ci sono cose che ci cambiano e cambiano la rotta a questo viaggio. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi siamo a Vas, nella cartiera del 500, che sta riprendendo vita. Ne stiamo parlando con Ivan Daltoè, presidente dell'associazione La Carta. Tu parlavi della possibilità di fare la carta e voi avete fatto un'esperienza e avete riproposto un laboratorio proprio per fare la carta come esempio di quello che si potrebbe fare. Che tipo di spazio vedi per un'attività di questo genere? Allora, noi proprio ieri abbiamo presentato in realtà un progetto che racchiude quello che mi hai appena chiesto, insomma. Sono ospiti in questi giorni i ragazzi di Toscolano 1381, che sono una piccola realtà artigianale che ha ripreso in un posto anche questo pregno di storie, come la Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, hanno ripreso a fare carta come la facevano i nonni dei loro nonni, quindi carta fatta a mano con la tecnica che si rifà alla tecnica tipica di questo luogo, che è una tecnica del 1500. Loro hanno scelto di riprendere questa tradizione e ne hanno fatto un motivo di lavoro. In questo momento hanno due giovani maestri cartai, ragazzi poco più che ventenni, che hanno ripreso, hanno carpito le informazioni, diciamo, dei vecchi maestri cartai e hanno ripreso a fare carta fatta a mano, che è una carta certamente diversa da quella industriale di cui siamo abituati, ma il fatto che sia diversa non significa che sia peggiore, anzi ha una serie di qualità sia dal punto di vista della materia sia dal punto di vista, diciamo così, della poesia, del racconto che si porta appresso, molto maggiori. e noi con loro abbiamo avviato una collaborazione che ci permetterà di accompagnare il nostro percorso culturale didattico di Museo della Carta con una attività anche produttiva che ne diventa parte integrante. Cioè noi immaginiamo un racconto del mondo carta che abbia aspetti di identitari, aspetti culturali, ma che contemporaneamente possa diventare anche un'occasione di lavoro, quindi anche un piccolo laboratorio artigianale per fare carta esattamente come si faceva qui a Vas un paio di secoli fa. Ecco, voi avete fatto in questo laboratorio dei fogli di carta, i primi li avete dati a dei i primi dopo 60 anni li avete regalati a ex lavoratori della cartiera che sono ancora viventi, anche se ormai sono passati tanti anni. Ma come si fa la carta? Da che cosa partite? Dal legno, da carta riciclata, da lana, da cotone, vestiti, da che cosa si parte? Beh, questo è un discorso molto complesso, perché raccontare la storia della carta non basterebbe, credo, un paio d'ore, insomma è una storia molto lunga, molto affascinante. Allora, brevemente dico che non molti lo sanno, ma la carta originariamente, e specialmente a Vas, si faceva partendo dagli stracci, cioè dalle fibre vegetali di lino, cotone e lana. E qui si è fatta, qui a Vas, si è fatta la carta esattamente in questo modo fino grosso modo a metà del Novecento, dopodiché la materia prima è stata costituita dalla carta straccia, quindi carta riciclata che arrivava da tutto il mondo, che veniva cernita da delle operaie molto sapienti che ad occhio sapevano selezionare la carta giusta per il prodotto finale. Chiaramente a questa carta che veniva macerata venivano poi aggiunte delle soluzioni di cellulosa e questa era la materia principale. E come noi intendiamo riprendere a fare la carta è anche un processo di sperimentazione. I nostri amici di Toscolano 1381 ad esempio partono come materia prima dal cotone, quindi utilizzano le fibre del cotone che seguiranno una lavorazione ben precisa che adesso qui non mi dilungo a spiegarvi, insomma, che diventa poi una soluzione acquosa mista a cellulosa, e questa è la materia prima per fare il foglio di carta. Apparentemente sembrano processi molto semplici, ma in realtà arrivare a fare un foglio semplice come i fogli A5 che stiamo facendo vedere a livello laboratoriale in questi giorni richiede non solo dei grandi saperi ma anche una manualità che è andata persa, movimenti proprio di corpo che sono andati perduti e che questi ragazzi stanno recuperando e che dimostrano la complessità e allo stesso tempo la magia che un foglio di carta fatto a mano porta dentro di sé. Ecco. Ecco, l'ultima cosa, se qualcuno volesse saperne qualcosa di più, dove si può trovare, si possono trovare informazioni sulla storia della cartiera di Vas e sulle vostre attività? Forse c'è un sito internet, una pagina Facebook? Allora, noi abbiamo un sito internet il cui dominio è cartieravas.it, ma al momento abbiamo solamente l'indirizzo ed è vuoto, insomma. È ben più attiva se qualcuno ha dimestichezza con Facebook, può andare su in cerca di pagina La Carta, tutto attaccato con il CH, ed è la nostra pagina, diciamo, della nostra associazione, lì può tenersi aggiornate, mettendo mi piace sulla pagina, può tenersi aggiornate sulle nostre attività. Se qualcuno fosse interessato ad approfondire gli aspetti storici, esiste un libro di cui noi abbiamo anche curato la pubblicazione, che è Storia di una cartiera venetra, tre secoli di produzione della carta Vas, di Stefano Mazzalò, che racconta questi tre secoli di storia importante non solo di Vas ma un pochino del nord Italia, perché poi la storia della cartiera si intreccia al paese ma si intreccia anche alla storia culturale e industriale più ampia di tutta l'Italia, insomma. Grazie. Auguriamo quindi alla cartiera il completo recupero e abbiamo ancora tempo per qualche notizia. La Commissione europea ha rinnovato lo stop ai neonicotinoidi almeno per tutto il 2017, ammettendo deroghe solo per il loro utilizzo in serra. Si attende ora la valutazione finale dell'apposita Commissione internazionale congiunta PAF. Entro fine anno dovrebbe arrivare la decisione finale, che sarà presa di concerto con gli Stati membri. Passiamo al Veneto, la regione finanzierà interventi per 7,2 milioni di euro a favore della pesca e dell'acquacoltura. In dettaglio il provvedimento individua 8 misure a sostegno della pesca, 5 per l'acquacoltura e 2 connesse alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici. Il motivo di queste misure sono il miglioramento delle condizioni di lavoro dei pescatori, la riduzione dell'impatto della pesca sugli ecosistemi marini e delle acque interne, la tracciabilità dei prodotti ittici e lo sviluppo di attività complementari alla pesca. Per l'acquacoltura, in particolare, si punta a sviluppare nuove opportunità di mercato e migliorare le tecniche di allevamento. Infine, E torniamo in Europa. Il primo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione Europea, condotto dalla Commissione, pubblicato a inizio di febbraio, rivela come 23 Stati membri su 28 violino le norme relative alla qualità dell'aria. La Corte dei Conti si accinge quindi a aspettare un audit sulle misure adottate a livello europeo contro l'inquinamento atmosferico e ha annunciato i primi particolari a riguardo che sono, diciamo, preoccupanti. L'inquinamento atmosferico è il singolo rischio ambientale per la salute di maggior rilievo in Europa e, secondo questo studio, provocherebbe ogni anno circa 450.000 decessi prematuri dovuti a malattie respiratorie e di altro genere. Ha inoltre considerevoli impatti economici e ambientali che vanno dalle spese mediche più elevate ma anche alla minore produttività, ai danni arrecati alla vegetazione e agli ecosistemi. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il Quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato? Il Quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.